ad alta voce. Lucia Poli legge I Promessi Sposi di Alessandro Manzoni. Nella lettera, il segretario D'Agnese, dopo qualche lamento sulla poca chiarezza della proposta, passava a descrivere con chiarezza a un dipresso uguale la tremenda storia di quella persona, così diceva, e qui rendeva ragione dei 50 scudi. Poi veniva a parlare del voto, ma per via di perifrasi, aggiungendo, con parole più dirette e aperte, il consiglio di mettere il cuore in pace e di non pensarci più. Renzo poco mancò che non se la prendesse col lettore interprete. Tremava, inorridiva, si infuriava di quel che aveva capito e di quel che non aveva potuto capire. 3 o 4 volte si fece rileggere il terribile scritto, ora parendogli di intender meglio, ora divenendogli buio ciò che prima gli era parso chiaro. E in quella febbre di passioni volle che il segretario mettesse subito mano alla penna e rispondesse. Dopo le espressioni più forti che si possano immaginare di pietà e di terrore per i casi di Lucia, scrivete, proseguiva dettando, che io il cuore in pace non lo voglio mettere e non lo metterò mai, e che non son parevi da darsi a un figliuolo par mio, e che i denari non li toccherò, che li ripongo e li tengo in deposito per la dote della giovine, che già la giovine deve essere mia, e che io non so di promessa, e che ho ben sempre sentito dire che la Madonna c'entra per aiutare i tribolati e per ottenere delle grazie, ma per far dispetto e per mancar di parola non l'ho sentito mai, e che codesto non può stare, e che con questi denari abbiamo a metter su casa qui, e che se ora sono un po' imbrogliato è una burrasca che passerà presto, e cose simili. Agnese riceve poi quella lettera e fece riscrivere, e il carteggio continuò nella maniera che abbiamo detto. Lucia, quando la madre ebbe potuto, non so per qual mezzo, farle sapere che quel tale era vivo e in salvo e avvertito, sentì un gran sollievo e non desiderava più altro se non che si dimenticasse di lei, o, per dir la cosa proprio a un puntino, che pensasse a dimenticarla. Dal canto suo faceva 100 volte al giorno una risoluzione simile al riguardo di lui e adoperava anche ogni mezzo per mandarla d'effetto. Stava assiduo al lavoro e cercava di occuparsi tutta in quello. Quando l'immagine di Renzo le si presentava e lei a dire o a cantare orazioni a mente. Ma quell'immagine, proprio come se avesse avuto malizia, non veniva per lo più così alla scoperta, si introduceva di soppiatto dietro all'altre, in modo che la mente non s'accorgesse d'averla ricevuta se non dopo qualche tempo che la c'era. Il pensiero di Lucia stava spesso con la madre, come non ci sarebbe stato, e il Renzo ideale veniva pian piano a mettersi in terzo, come il reale aveva fatto tante volte. Così, con tutte le persone, in tutti i luoghi, in tutte le memorie del passato, colui si veniva a ficcare. E se la poverina si lasciava andare qualche volta a fantasticar sul suo avvenire, anche lì compariva colui per dire, se non altro, io a buon conto non ci sarò. Però, se il non pensare a lui era impresa disperata, a pensarci meno e meno intensamente che il cuore avrebbe voluto, Lucia ci riusciva fino a un certo segno. Ci sarebbe anche riuscita meglio se fosse stata sola a volerlo. Ma c'era donna Prassede, la quale, tutta impegnata dal canto suo a levarle dall'animo colui, non aveva trovato migliore espediente che di parlargliene spesso. Ebbene, le diceva, non ci pensan più a colui. Io non penso a nessuno, rispondeva Lucia. Donna Prassede non s'appagava ad una risposta simile. Replicava che ci volevan fatti e non parole. Si diffondeva a parlare sul costume delle giovani, le quali, diceva, quando hanno nel cuore uno scapestrato, ed è lì che inclinano sempre, non se lo staccan più. un partito onesto, ragionevole, d'un galantuomo, d'un uomo assestato che, per qualche accidente, vada a monte, son subito rassegnate. Ma un rompicollo è piaga incurabile. E allora principiava il panegirico del povero assente. Del birbante venuto a Milano per rubare e scannare. E voleva far confessare a Lucia le bricconate che colui doveva aver fatte sicuramente anche al suo paese. Lucia, con la voce tremante di vergogna, di dolore e di quello sdegno che poteva aver luogo nel suo animo dolce e nella sua umile fortuna, assicurava, attestava che al suo paese quel poveretto non aveva mai fatto parlare di sé, altro che in bene. Avrebbe voluto, diceva, che fosse presente qualcheduno di là per fargli da testimonianza. Anche sulle avventure di Milano, delle quali non era ben informata, lo difendeva, appunto con la cognizione che aveva di lui e dei suoi portamenti fino dalla fanciullezza. Lo difendeva o si proponeva di difenderlo per puro dovere di carità, per amore del vero, e a dir proprio la parola con la quale spiegava a se stessa il suo sentimento, come prossimo. Ma da queste apologie da una prassede ricavava nuovi argomenti per convincere Lucia che il suo cuore era ancora perso dietro a colui. E per la verità, in quei momenti non saprei ben dire come la cosa stesse. L'indegno ritratto che la vecchia faceva del poverino risvegliava, per opposizione, più viva e più distinta che mai nella mente della giovine l'idea che vi s'era formata in una così lunga consuetudine. Le rimembranze compresse a forza si svolgevano in folla. L'avversione e il disprezzo richiamavano tanti antichi motivi di stima. L'odio cieco e violento faceva sorgere più forte la pietà. Sia come si sia, il discorso per la parte di Lucia non sarebbe mai andato molto in lungo, che le parole finivan presto in pianto. Se donna Prassede fosse stata spinta a trattarla in quella maniera da qualche odio inveterato contro di lei, forse quelle lacrime l'avrebbero tocca e fatta smettere. Ma parlando a fin di bene, tirava avanti, senza lasciarsi smuovere. Come i gemiti, i gridi supplichevoli potranno ben trattenere l'arme d'un nemico, ma non il ferro d'un chirurgo. Fatto però bene il suo dovere per quella volta, dalle stoccate e da rabbuffi veniva alle esortazioni, ai consigli, conditi anche di qualche lode per temperar l'agro col dolce e ottener meglio l'effetto operando sull'animo in tutti i versi. Certo, di quelle baruffe, che avevano sempre a un dipresso lo stesso principio mezzo e fine, non rimaneva alla buona Lucia propriamente astio contro l'acerba predicatrice, la quale poi nel resto la trattava con gran dolcezza. E anche in questo si vedeva una buona intenzione. Le rimaneva bensì un ribollimento, una sollevazione di pensieri e d'affetti tale che ci voleva molto tempo e molta fatica per tornare a quella qualunque calma di prima. Buon per lei che non era la sola a cui donna Prassede avesse a far del bene. Sicché le baruffe non potevano essere così frequenti. Oltre il resto della servitù, tutti i cervelli che avevano bisogno più o meno d'essere raddrizzati e guidati, oltre tutte le altre occasioni di prestar lo stesso uffizio per buon cuore a molti con cui non era obbligata a niente, occasioni che cercava se non soffrivano da sé, aveva anche 5 figlie, nessuna in casa, ma che le davano più da pensare che se ci fossero state. 3 erano monache, 2 maritate, e donna Prassede si trovava naturalmente aver 3 monasteri e 2 case a cui sovrintendere. Impresa vasta e complicata, e tanto più faticosa che 2 mariti, spalleggiati da padri, da madri, da fratelli, e 3 badesse, fiancheggiate da altre dignità e da molte monache, non volevano accettare la sua soprintendenza. Era una guerra, anzi 5 guerre, coperte, gentili, fino a un certo segno, ma vive e senza tregua. Era in tutti quei luoghi una tensione continua a scansare la sua premura, a chiuderla adito ai suoi pareri, a eludere le sue richieste, a far che fosse al buio più che si poteva ad ogni affare. Non parlo dei contrasti, delle difficoltà che incontrava nel maneggio d'altri affari anche più estranei. Si sa che agli uomini il bene bisogna le più volte farlo per forza. Dove il suo zelo poteva esercitarsi liberamente era in casa. Lì ogni persona era soggetta in tutto e per tutto alla sua autorità. Fuorché Don Ferrante, col quale le cose andavano in un modo affatto particolare. Uomo di studio, non gli piaceva né di comandare né d'ubbidire che in tutte le cose di casa la signora moglie fosse la padrona alla buon'ora, ma a lui servo no. E se pregato le prestava un'occorrenza all'ufficio della penna, era perché ci aveva il suo genio. Del rimanente, anche in questo sapeva dir di no, quando non fosse persuaso di ciò che lei voleva fargli scrivere. La si ingegni, diceva in quei casi, faccia da sé, già che la cosa le par tanto chiara. Donna Prassede, dopo aver tentato per qualche tempo e inutilmente di tirarlo da lasciar fare al fare, s'era ristretta a brontolare spesso contro di lui, a nominarlo uno schiva fatiche, un uomo fisso nelle sue idee, un letterato, titolo nel quale, insieme con la stizza, c'entrava anche un po' di compiacenza. Don Ferrante passava di grand'ore nel suo studio, dove aveva una raccolta di libri considerabile, poco meno di 300 volumi, tutta roba scelta, tutte opere delle più riputate in varie materie, in ognuna delle quali era più o meno versato. Nell'astrologia era tenuto, e con ragione, per più che un dilettante, perché non ne possedeva soltanto quelle nozioni generiche e quel vocabolario comune di influssi d'aspetti e di congiunzioni, ma sapeva parlare a proposito e come dalla cattedra delle 12 case del cielo, dei circoli massimi, dei gradi lucidi e tenebrosi, d'esaltazione e di deiezione, di transiti e di rivoluzioni, dei principi, insomma, più certi e più reconditi della scienza. Della filosofia antica aveva imparato quanto poteva bastare e ne andava di continuo imparando di più dalla lettura di Diogene Laerzio. Siccome però quei sistemi, per quanto siano belli, non si può adottarli tutti e a voler essere filosofo bisogna scegliere un autore, così Don Ferrante aveva scelto Aristotele, il quale, come diceva lui, non è né antico né moderno, è il filosofo. Della filosofia naturale si era fatto più un passatempo che uno studio. L'opere stesse d'Aristotele su questa materia e quelle di Plinio le aveva piuttosto lette che studiate. Non di meno, con questa lettura, con le notizie raccolte incidentalmente da trattati di filosofia generale, con qualche scorsa data alla magia naturale del porta, alle tre storie Lapidum Animalium Plantarum del Cardano, al trattato delle erbe, delle piante, degli animali d'Alberto Magno, a qualche altra opera di minor conto, sapeva a tempo trattenere una conversazione ragionando delle virtù più mirabili e delle curiosità più singolari di molti semplici, descrivendo esattamente le forme e le abitudini delle sirene e dell'unica fenice, spiegando come la salamandra stia nel fuoco senza bruciare, come la remora, quel pesciolino, abbia la forza e l'abilità di fermare di punto in bianco in alto mare qualunque gran nave, come le gocciole della rugiada diventino perle in seno delle conchiglie, come il camaleonte si cibi d'aria, come dal ghiaccio lentamente indurato, con l'andar dei secoli, si formi il cristallo, e altri dei più meravigliosi segreti della natura. In quelli della magia e della stregoneria s'era internato di più, trattandosi, dice il nostro anonimo, di scienza molto più in voga e più necessaria, e nella quale i fatti sono di molto maggiore importanza e più a mano da poterli verificare. Non c'è bisogno di dire che, in un tale studio, non aveva mai avuta altra mira che d'istruirsi e di conoscere a fondo le pessime arti dei maliardi per potersene guardare e difendere. Ugualmente vaste e fondate erano le cognizioni di Don Ferrante in fatto di storia. «Ma cos'è mai la storia?» diceva spesso Don Ferrante. «Senza la politica, una guida che cammina, cammina, con nessuno dietro che impari la strada, e per conseguenza butta via i suoi passi. Come la politica senza la storia è uno che cammina senza guida». C'era dunque nei suoi scaffali un palchetto assegnato agli statisti, dove tra molti di piccola mole e di fama secondaria spiccavano il Bodino, il Cavalcanti, il Sansovino, il Paruta, il Boccalini. Ma se in tutte le scienze suddette Don Ferrante poteva dirsi addottrinato, una ce n'era in cui meritava e godeva il titolo di professore: la scienza cavalleresca. Non solo ne ragionava con vero possesso, ma, pregato frequentemente di intervenire in affari d'onore, dava sempre qualche decisione. Aveva nella sua libreria, e si può dire in testa, le opere degli scrittori più riputati in tal materia: Paride dal Pozzo, Fausto dal Longiano, l'Urrea, il Muzio, il Romei, l'Albergato, il Forno Primo e il Forno Secondo di Torquato Tasso, di cui aveva anche in pronto e a un bisogno sapeva citare a memoria tutti i passi così della Gerusalemme liberata come della conquistata, che possono far testo in materia di cavalleria. Ma noi cominciamo a dubitare se veramente il lettore abbia una gran voglia di andare avanti con lui in questa rassegna. Anzi, a temere di non aver già buscato il titolo di copiator servile per noi e quello di seccatore da dividersi con l'anonimo sullodato per averlo bonariamente seguito fin qui in cosa estranea al racconto principale e nella quale probabilmente non si è tanto disteso che per sfoggiar dottrina e far vedere che non era indietro del suo secolo. Dopo quella sedizione del giorno di San Martino e del seguente, parve che l'abbondanza fosse tornata in Milano, come per miracolo. Pane in quantità da tutti i fornai, il prezzo come nelle annate migliori, le farine a proporzione. Coloro che in quei due giorni s'erano addati a urlare o a fare anche qualcosa di più, avevano ora, meno alcuni pochi stati presi, di che lodarsi. E non crediate che se ne stessero appena cessato quel primo spavento delle catture. Sulle piazze, sulle cantonate, nelle bettole era un tripudio palese, un congratularsi e un vantarsi tra denti d'aver trovata la maniera di far rinvigliare il pane. In mezzo però alla festa e alla baldanza c'era, e come non ci sarebbe stata, un'inquietudine, un presentimento che la cosa non avesse a durare. Assediavano i fornai e i farinaioli. Tutti consumavano senza risparmio. Chi aveva qualche quattrino da parte li investiva in pane e in farine. Faceva magazzino delle casse, delle botticine, delle caldaie. Così, facendo a gara goder del buon mercato presente, ne rendevano, non dico impossibile la lunga durata, che già lo era per sé, ma sempre più difficile anche la continuazione momentanea. Ed ecco che il 15 di novembre Antonio Ferrer, de Orden de Su Excellencia, pubblicò una grida con la quale a chiunque avesse granaglie o farine in casa veniva proibito di comprarne né punto né poco, e ad ognuno di comprar pane per più che il bisogno di due giorni, sotto pene pecuniarie e corporali all'arbitrio di Sua Eccellenza. Intimazione a chi toccava per ufficio e a ogni persona di denunziare i trasgressori. Ordine a giudici di far ricerche nelle case che potessero venir loro indicate. Insieme però, nuovo comando ai fornai di tenere le botteghe ben fornite di pane, sotto pena, in caso di mancamento, di 5 anni di galera et maggiore all'arbitrio di Sua Eccellenza. Chissà immaginarsi una grida tale eseguita deve avere una bella immaginazione. E certo, se tutte quelle che si pubblicavano in quel tempo erano eseguite, il Ducato di Milano doveva avere almeno tanta gente in mare quanta ne possa avere ora la Gran Bretagna. Mantenuto così il pane e la farina a buon mercato in Milano, ne veniva di conseguenza che dalla campagna corresse gente a processione a comprarne. Don Gonzalo, per riparare a questo, come dice lui, inconveniente, proibì con un'altra grida del 15 di dicembre di portar fuori della città pane per più del valore di 20 soldi, pena la perdita del pane medesimo e 25 scudi ed in caso di inabilità di 2 tratti di corda in pubblico et maggiore pena ancora, secondo il solito, all'arbitrio di Sua Eccellenza. Il 22 dello stesso mese, e non si vede perché così tardi, pubblicò un ordine somigliante per le farine e per i grani. La moltitudine aveva voluto far nascere l'abbondanza col saccheggio e con l'incendio. Il governo voleva mantenerla con la galera e con la corda. I mezzi erano convenienti tra loro, ma cosa avessero a fare col fine, il lettore lo vede. Come valessero in fatto ad ottenerlo, lo vedrà a momenti. È poi facile anche vedere, e non inutile l'osservare, come tra quegli strani provvedimenti ci sia però una connessione necessaria. Ognuno era una conseguenza inevitabile dell'antecedente, e tutti del primo, che fissava al pane un prezzo così lontano dal prezzo reale, da quello cioè che sarebbe risultato naturalmente dalla proporzione tra il bisogno e la quantità. Alla moltitudine un tale espediente è sempre parso e ha sempre dovuto parere quanto conforme all'equità, altrettanto semplice e agevole a mettersi in esecuzione. È quindi cosa naturale che nell'angustia e nei patimenti della carestia essa lo desideri, l'implori e, se può, l'imponga. Di mano in mano poi che le conseguenze si fanno sentire, conviene che coloro a cui tocca vadano al riparo di ciascheduna con una legge la quale proibisca agli uomini di far quello a che erano portati dall'antecedente. Ci si permette ad osservare qui di passaggio una combinazione singolare. In un paese e in un'epoca vicina, nell'epoca la più clamorosa e la più notabile della storia moderna, si ricorse in circostanze simili a simili espedienti. I medesimi, si potrebbe quasi dire, nella sostanza, con la sola differenza di proporzione e a un dipresso nel medesimo ordine. Ad onta dei tempi tanto cambiati e delle cognizioni cresciute in Europa e in quel paese forse più che altrove, e ciò principalmente perché la gran massa popolare alla quale quelle cognizioni non erano arrivate poté far prevalere a lungo il suo giudizio e forzare, come colà si dice, la mano a quelli che facevano la legge. Lucia Poli ha letto I Promessi Sposi di Alessandro Manzoni.